Ma il desiderio di non perdere per sempre certe donne, assai più di certe piazze, mi manteneva a Venezia in uno stato d'agitazione che divenne febbrile il giorno in cui mia madre aveva deciso che saremmo partiti. Quando alla fine della giornata, con i nostri bauli già partiti in gondola alla volta della stazione, lessi su un registro degli stranieri attesi in albergo baronessa Putbus e accompagnatore. Immediatamente, il senso di tutte le ore di piacere carnale che la nostra partenza mi avrebbe fatto perdere elevò il desiderio che già esisteva in me in forma cronica all'altezza d'un sentimento e lo immerse nella malinconia e nell'indeterminatezza. Chiesi a mia madre di rimandare la partenza di qualche giorno e l'impressione che lei non prendesse per un solo istante in considerazione e nemmeno sul serio la mia preghiera risvegliò nei miei nervi eccitati dalla primavera veneziana il mio vecchio desiderio di resistenza a un complotto immaginario tramato contro di me dai miei genitori, persuasi di potermi costringere a obbedire. La stessa volontà di lotta, desiderio che mi spingeva un tempo a imporre bruscamente la mia volontà alle persone più amate, salvo conformarmi io alla loro, dopo essere riuscito a farli cedere. Dissi a mia madre che non sarei partito, ma lei, credendo più abile far finta di pensare che non parlassi seriamente, non mi rispose nemmeno. Il portiere venne a portarci 3 lettere, 2 per lei, 1 per me, che misi nel mio portafogli in mezzo a tutte le altre senza nemmeno guardare la busta. E quando venne il momento in cui la mamma, seguita da tutte le sue cose, si imbarcò per la stazione, io mi feci portare una consumazione sulla terrazza davanti al canale e mi sistemai lì, guardando il sole che tramontava, mentre su una barca ferma di fronte all'albergo un musicante cantava Sole mio. Il sole continuava a scendere. Mia madre non doveva essere lontana dalla stazione. Presto sarebbe partita. Sarei rimasto solo a Venezia, solo con la tristezza di saperla addolorata per causa mia e senza la sua presenza a consolarmi. L'ora del treno si avvicinava. La mia solitudine irrevocabile era così imminente che mi sembrava già cominciata e totale. Infatti, mi sentivo solo. Le cose mi erano diventate estranee. Non avevo più abbastanza calma per uscire dal mio cuore palpitante e introdurre in esse un po' di stabilità. La città che avevo davanti aveva smesso d'essere Venezia. La sua personalità, il suo nome, mi sembravano finzioni menzogniere che non avevo più il coraggio di inculcare alle pietre. I palazzi mi apparivano ridotti a semplici parti e quantità di marmo, simili a qualsiasi altra, e l'acqua una combinazione di idrogeno ed azoto, eterna, cieca, anteriore ed esteriore rispetto a Venezia, ignara dei Dogi e di Turner. E tuttavia, quel luogo qualunque era strano come un luogo dove si sia appena arrivati, che non ci conosca ancora, come un luogo da cui si sia appena partiti e ci abbia già dimenticati. Non potevo dirgli più niente di me. Non potevo lasciarvi posare più niente di mio. Mi abbandonava contratto su me stesso. Non ero più che un cuore che batteva, un'attenzione che seguiva ansiosamente il dispiegarsi di sole mio. Per quanto agganciassi disperatamente il mio pensiero al bello slancio caratteristico di Rialto, esso mi appariva con la mediocrità dell'evidenza come un ponte non soltanto inferiore, ma estraneo all'idea che ne avevo. Come un attore di cui, a dispetto della sua parrucca bionda e del suo vestito nero, si sappia che in sé per sé non è Amleto. Così i palazzi, il canale, Rialto, s'erano spogliati dell'idea che ne faceva l'individualità e dissolti nei loro volgari elementi materiali. Ma nello stesso tempo, quel luogo mediocre mi sembrava lontano. Nel bacino dell'arsenale, a causa d'un elemento anch'esso scientifico, la latitudine, le cose avevano quella singolarità che le rivela, al di là della loro apparente somiglianza con quelle del nostro paese, straniere, in esilio sotto altri cieli. Sentivo che quell'orizzonte così vicino, che avrei potuto raggiungere in un'ora, era una curvatura della terra affatto diversa da quella dei mari della Francia, una curvatura lontana che l'artificio del viaggio aveva fatto ormeggiare accanto a me. E così, quel bacino al tempo stesso insignificante e lontano, mi riempiva dello stesso miscuglio di disgusto e di spavento che avevo provato da bambino la prima volta che avevo accompagnato mia madre ai bagni di Ligné. In effetti, nel paesaggio fantastico composto da un'acqua cupa cui non sovrastavano il cielo e il sole e che circondato di cabine comunicava tuttavia, lo si sentiva, con invisibili profondità coperte di corpi umani in mutande, mi ero chiesto se tali profondità, nascoste ai mortali da baraccamenti che impedivano di sospettarne l'esistenza dalla strada, non fossero l'ingresso dei mari glaciali che lì avevano inizio. Se i poli non vi fossero compresi e se quello stretto spazio non fosse appunto il mare libero del polo. Questa Venezia, senza simpatia per me, e in cui stavo per rimanere solo, non mi sembrava meno isolata, meno irreale. Ed era il mio sgomento che il canto di Sole mio, innalzato come una deplorazione della Venezia che avevo conosciuta, sembrava prendere a testimone. Certo avrei dovuto smettere di ascoltarlo per poter ancora raggiungere mia madre e prendere il treno con lei. Avrei dovuto decidere, senza perdere un solo secondo, di partire, ma era proprio ciò che non potevo fare. Rimanevo immobile, incapace non solo di alzarmi, ma anche di decidere che dovevo alzarmi. Il mio pensiero, probabilmente per non soffermarsi su una risoluzione da prendere, si applicava per intero a seguire il succedersi delle varie frasi di Sole mio, a cantare mentalmente con il cantante, a prevedere lo slancio cui si sarebbe abbandonato, abbandonandomi a mia volta adesso, poi a lasciarmi ricadere. Non che quel canto insignificante, sentito 100 volte, avesse per me il minimo interesse. Non potevo far piacere a nessuno, né a me stesso, ascoltandolo così religiosamente fino in fondo. E nessuno dei motivi che conoscevo in anticipo di quella volgare romanza poteva fornirmi la risoluzione di cui avevo bisogno. Anzi, ciascuna delle frasi, una volta passata, si trasformava in un ostacolo a prendere efficacemente tale risoluzione, o meglio, mi costringeva alla risoluzione opposta, non partire, perché faceva sì che mi passasse l'ora. Per questo, l'occupazione di per sé priva di piacere d'ascoltare Sole mio si caricava d'una tristezza profonda, quasi disperata. Sentivo che, in realtà, per il fatto stesso di restare lì senza muovermi, la risoluzione che prendevo era quella di non partire. Il dire a me stesso «non parto», che non mi era possibile in questa forma diretta, lo diventava in quest'altra «sentirò ancora una frase di Sole mio». Ma il significato pratico di questo linguaggio figurato non mi sfuggiva e pur dicendomi «in fin dei conti non faccio altro che ascoltare un'altra frase», sapevo che questo voleva dire «rimarrò solo a Venezia». Ed era forse questa tristezza a fare come una sorta di freddo che intorpidisce l'incanto disperato ma fascinatore di quella canzone. Ogni nota, lanciata dalla voce del cantante con una forza e un'ostentazione quasi muscolari, veniva a colpirmi in pieno cuore. Quando la frase era finita in basso e il pezzo sembrava concluso, il cantante non ne aveva abbastanza e riprendeva in alto come se avesse bisogno di proclamare una volta di più la mia solitudine e la mia disperazione. Mia madre doveva essere arrivata alla stazione. Presto sarebbe partita. Ero stretto dall'angoscia provocatami con la vista del canale diventato piccolissimo da quando l'anima di Venezia ne era sfuggita, da quel rialto banale che non era più rialto, da quel canto di disperazione in cui s'era trasformato Sole mio e che, proclamato in quel modo davanti ai palazzi inconsistenti, finiva di sbriciolarli e consumava la rovina di Venezia. Assistevo alla lenta realizzazione della mia infelicità, costruita artisticamente, senza fretta, nota per nota, dal cantante, cui guardava con stupore il sole fermo dietro San Giorgio Maggiore, così che quella luce crepuscolare avrebbe fatto per sempre nella mia memoria, con il brivido della mia emozione e la voce di bronzo del cantante, una mescolanza equivoca, immutabile e straziante. Rimanevo dunque immobile, con una volontà dissolta, senza decisione apparente. In quei momenti essa è probabilmente già presa. Spesso anche i nostri amici possono prevederla, ma noi non possiamo. Tante sofferenze altrimenti ci sarebbero risparmiate. Ma infine, da antri più oscuri di quelli da cui si slancia la cometa che può essere predetta, grazie all'insospettabile potenza difensiva dell'abitudine inveterata, grazie alle riserve nascoste che con impulso improvviso essa getta all'ultimo momento nella mischia, scaturì infine la mia azione. Mi misi le gambe in spalla e arrivai, con gli sportelli già chiusi, ma in tempo per ritrovare mia madre, che, rossa d'emozione, si sforzava di non piangere perché credeva che non sarei più arrivato. Poi il treno partì e vedemmo Padova e poi Verona venire incontro al treno, venire a dirci addio quasi sino alla stazione e, quando ci fummo allontanati, riguadagnare loro che non partivano e avrebbero ripreso la loro vita, una la sua pianura, l'altra la sua collina. Le ore passavano. Mia madre non s'affrettò a leggere le due lettere che aveva soltanto aperte e si adoperò perché anch'io non prendessi subito il mio portafogli per cercarvi la lettera che il portiere dell'albergo mi aveva consegnata. Aveva sempre paura che i viaggi mi sembrassero troppo lunghi, troppo noiosi, e ritardava il più possibile, per tenermi occupato durante le ultime ore, il momento in cui avrebbe tirato fuori le uova sode, mi avrebbe passato i giornali, avrebbe disfatto il pacco dei libri comprati senza dirmelo. Da principio guardai mia madre che leggeva stupita la sua lettera, poi sollevava la testa e i suoi occhi sembravano posarsi via via su ricordi distinti, incompatibili e che lei non riusciva a mettere insieme. Nel frattempo avevo riconosciuto sulla mia busta la scrittura di Gilbert. La aprii. Gilbert mi annunciava il suo matrimonio con Robert de Saint-Loup. Mi diceva d'avermi telegrafato in proposito a Venezia e di non aver avuto risposta. Ricordai che mi avevano detto quanto male funzionasse lì il servizio telegrafico. Non avevo mai ricevuto telegrammi. Lei forse non ci avrebbe creduto. Di colpo sentii nel mio cervello un fatto che vi si era installato allo stato di ricordo, lasciare il suo posto e cederlo a un altro. Il telegramma che avevo ricevuto pochi giorni prima e che avevo creduto di Albertine era di Gilbert. Poiché l'originalità alquanto artificiosa della scrittura di Gilbert consisteva principalmente, quando scriveva una riga, nel far figurare nella riga superiore i trattini delle T, che sembravano sottolineare le parole, o i puntini sulle I, che avevano l'aria di interrompere le frasi della riga di sopra, e in compenso nell'intercalare in quella di sotto le code, gli arabeschi delle parole sovrastanti, era del tutto naturale che l'impiegato del telegrafo avesse letto i riccioli delle S o delle Y della riga superiore come un in alla fine della parola Gilbert. Il puntino sulla I di Gilbert era salito di sopra a fare da punto fermo. Quanto alla sua G, aveva l'aspetto di una A gotica. Che, a parte questo, due o tre parole fossero state lette male, ficcate l'una dentro l'altra, alcune del resto mi erano parse incomprensibili, era sufficiente a spiegare i particolari del mio errore. E non era nemmeno necessario. Quante lettere legge in una parola una persona distratta, e soprattutto prevenuta, che parte dall'idea che quella lettera sia ad una certa persona? Quante parole nella frase? Leggendo si indovina, si crea. Tutto parte da un errore iniziale. Quelli che seguono, e non soltanto nella lettura delle lettere e dei telegrammi, non soltanto in ogni lettura, sono, per straordinari che possano apparire a chi non ha lo stesso punto di partenza, assolutamente naturali. Una buona parte di quello che crediamo, ed è così fino alle conclusioni ultime, con un'ostinazione pari alla buona fede, viene da un primo equivoco riguardo alle premesse.